Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Mi dici là. Sì, Biondo. E beh, Brigido. E beh, basta lì, tutto a posto. Tutto a posto, è da mettere a posto. Non mi sento bene, no. Manuè. Io cazzo, siamo in due. Io lo stesso ho cazzo tutta la schiena a pezzi, non di meno, a pezzi. Io me lo posso immaginare sempre in piedi, in chibi, con quello che hai subito, già lo credo, già. Tu c'hai questo cazzo di sedia con la ruotella ancora appeso, tutta carta cazzo scangherata, ma vaffanculo. Il subiaccio. Vabbè. E ho smontato alle 2:30, ho smontato, sono arrivato a casa alle 3, adesso che invece vedo via in piedi. E infatti, tanto, casino drommi io mi accenno. No, non ho dormito, io ho dormito stanotte, che tanto domani sono di notte. Domani faccio dalle 10:30 fino alle 6:30 del mattino. E ho capito. E dai del caos, del casso. Orari del cavolo, Bruce. Certo. Cosa ti devi va? Cosa mi devi va? Nulla, cosa mi devi va? Mi va fra un poco per un campeggio, dice che non trovano personale per andare al campeggio. A me non mi schizzi, ha giurito. Che c'è? Se non ti tocca andare pure al campeggio. E allora, io sto te l'hanno passato, non era un campeggio, per carità. Esci di gabula ienti, ah non va ammazziti. Ci mandino le cose, come si chiama? Le vittime. Grazie, è bello il villaggio perché è bello, perché in pratica giri con la macchinina in tutto il villaggio, con quelle macchine da campeggio, quelle macchinette che usano a giocare a golf. Ma cazzo di un rischio, buia, esci di capo con tutte le caiette. Beh, te credo. Si scanno, già vado di qua e di riguio. Chiama gente lì del posto, no, mi interessa un cavolo. E infatti, da buba, cazzo. Lo sai, ti do piani di più, Sì, quelli se ne è parlato di più, se la fanno parlare di più, se la fanno mettere a 90 gradi. A noi da che appunto ci arrivi, cazzo, sono proprio dei ladri, cazzo. Ah, se so che fanno un'azienda di pagliacci, ma per carità, un'azienda di pagliacci, brutto. E allora, ma pigliamo stipendio... normale, devi travagliare, devi farci la china a vino. Per prendere, cosa ti posso dire, ti faccio un'idea. Per prendere 1.300 euro ti devi fare la bellezza di 245 ore. Per prendere 1.300 euro. Infatti lo conto 245. E lui va giù 30 zinco alla ghida, 7 ore al giorno facevo, e neanche, e pigliavo di più pure di 1.300, quando travagliavo il comune, gli assalti un po' guveggia. E beh, il comune si è malato così, cazzo saltare, si vuol dire, ma io cazzo vuole brigare le patate lungate, 4. Quindi giorni dovevi travagliare, Gesù Cristo mio, vai, vai, e ammazzati, mi l'avevi detto, cazzo via. Gesù non si è fatto più intendere, no. Non si è più fatto vedere, cazzo la mia musica, Gesù, prima dice si faceva vedere in questo circolo, cazzo la mia musica di tutto, non si è visto più. E anche so di chi dà niente, chi fa vita, fa vita, però non fa, dimmi. Sì, io lo so, Lattari, tutto fumo e niente arrosto, dico io, tutto fumo e niente arrosto, quante domande mi hanno, quante cazzo di cose mi hanno promesso, sì, e non si sono più fatti vedere, ma vedi, una faccina, ma vai. Se a me uno cazzo, ma lo sai le delusioni che ho avuto io lo stesso, che non ci sono mai riuscito a entrare. Cazzo, aveva cantato a uno un pezzo grosso che mi doveva punire in cozzi, no? Cazzo, ha fatto entrare una trabassona al bolso mio. Eh? Beh, allora che da poco alle elezioni vorrei che lo votassi dopo quello che mi ha fatto. Vai, ammazzati. Cazzo, non bisogna manca andare a votare sul dastro. Sì, se vedi che già te l'ho io la votazione. Cazzo, come mettere se l'ha fatto vedere la roba con la più di lato. Cazzo, via. Ma dimmi tu. Cazzo, ma cercato a buttarlo, da voi di chi so che mi ha fatto, fanno proprio la faccia della ragazza, così della brace, che sta niente. È tutto interesso, e nulla non ti fanno per niente, ma lo sai come te, tu li fai perdere un braccio, e loro ti fanno perdere mezzo litro, te ne danno di cose. Ma io ci mi ha fatto un affronto proprio, ha fatto entrare un altro, cazzo, io sono dicendo, da voi, ma lo sai quanti ne ho girato, cazzo, non sono mai riuscito a entrare, proprio perché non va a vivere in corso di ultimo. Io ci devo avere conoscenze, già lo so, sì, io ci devo avere conoscenze, a papà gli amici che cazzo di bizzini, cazzo, non sono rimasti di pulcani rugabu. E infatti lo sapevano. Un mese, quando parlava paga, si nada. Non vi tornano in più a chi mi pigliava sul fiumare quando sanno che cosa è, un travaglio. Appunto anche per il lavoro, ma anche per la paga. Non solo per il travaglio, pure per la paga, a fare di niente altro. Infatti, cazzo. Ma datti 1300 euro, ti devi facciare un guru, ti devi facciare. Vai, che cazzo, poi quello è un lavoro, mamma mia. Ma quell'estate scorsa entravo dalle 5 di pomeriggio, fino all'otto di domani a Manzano, ma tutto mi vedevo i sciocchi, Natali. Arrivavo a casa, neanche il letto vedevo più. Io di poi forza che crollavi, cazzo, quando travaglia così, alla fine crolla. Perché è un lavoro, cazzo, non è pesante, ma mentalmente è faticoso. Ti uccide proprio quel lavoro. Cazzo, già lo so io già. Cazzo, quando vado io addirittura vado 12 ore, allora non dico, quando vado l'autista in una ditta di Gaia, 12 ore, Maria non finiva mai, il travaglio, non arrivi mai. La disintegrazione disimigliava. Figura, di dove vasi ore? E ne vasi io 15 così, a Ucciassoli, a cercare il fiume di sangue facevamo un cantonamento. A Ucciassoli, non vedo un luogo indipulito all'ombra, messa a due. Io credo che ti sciogliere ero Matteo, sei a Ucciassoli, in inverno a giubilare due Eva, neve, di tutto, vento, cosa cazzo mi ha giubilato, di tutto. Poi cazzo, ci domandano un ghizzo e tu la vera gira. Cazzo, guarda, meglio la morte. Entrava a risette di mandano e ci a risette di sera, 7:30. È un lavoro che non si è mai libero. È un lavoro che non si è mai tranquillo. Perché cazzo, quando sei di riposo, quel giorno lì che sei di riposo, non vedrai mai la cascia che devi recuperare un mese. L'unica cosa di buono che avevo era il sabato e la domenica, ma Ruruni, lo sai come ti arrivi a subito? Ma allora non ci abbiamo neanche il sabato, magari abbiamo il cazzo del sabato. Allora, adesso ti dico una cosa, il riposo nostro è il riposo, modo di dire, fai la notte, no? Smutti alle 6:30 del mattino e c'è il riposo. E che cazzo di riposo è che hai smontato quel giorno lì? E infatti non è un riposo, cazzo di altro. anche tu logicamente non puoi uscire, non puoi fare un cazzo, anche ti ingocchi e ti riposi al virus, se no a me non me la vai, non recupereggi. E poi un mattino dovevi essere in servizio, pensa a un riposo, e la mattina dovevo essere alle 5 e mezza e 6 lì a lavorare, ma le devi fare il culo, vai. Sì, infatti, che non l'ha provato, uno lo sa cosa è. Lasciamo andare a certa serata, lui, lascia perdere. Ma vabbè, un pakistano, un biliardo, però è alghero lui. Certo, ci sono gli orari, no? Tu devi fare dalle 6, per dire, no? 6 e mezza alle 2 e mezza, no? Sono 8 ore. Dalle 6 e mezza la mattina fino alle 2 e mezza. No, io con Bida si fate l'orario a caso su, a coso suio. Bida si fa la gatto caldo muovendo. Ah, così è. Allora non dura assai. E infatti il cazzo l'ha detto, ecco, fa una cosa, vai a andare a dire in Pakistano, non dire prima. Sì, è un grido. E quello è un lavoro, 8 ore, sono tra le puoi fare tranquillo. Cazzo, ma quando di solo 12 o 15, cazzo, ne ci sciolta vero. Cazzo di aro. No, sono tanti, Natale. Per chi non l'ha mai fatto, non lo so, io me la giovate, come te me la giovate. Io sono arrivato anche a farmi due giorni in uno, anzi quasi 3 giorni in uno, perché entravamo alle 5, smortevamo alle l'indomani alle 8, poi ti chiamava se potevo fare il turno anche la mattina, perché non c'era nessuno. Infatti non dormo, dato il cazzo di so. Ehi, già lo so, cazzo. A me la Michimini, chi si fa di anche su mestiere, me lo raccontavano. Che cazzo tu, appena ci tu arrivi alla telefonata, dovevi tornare a rimontare di servizio. E si faceva 2 servizi in 1. Ma dimmi tu. No, farò per farlo una volta, 2 volte, la poi alla fine. Alla fine si devo mandare su paese, perché non si può. Aspetta, mi accento un attimo, la carica. E già sono qui. Nuda. E poi cazzo, guarda, non lo riposo come deve riposare, cazzo, deve essere peggio di prima. Sì, infatti. Allora, di 7 mesi, magno, pure io. Ma se tu venga... che venga qualcuno, eh no, che è andata da un'amica sua, e io sono per azzurra, no? Abbandonato, sta. Mi ha sedotto e abbandonato, cazzo. Queste donne. E allora, non avvone solo che a noi. Ma stai per ora il controllo, per favore. Arrivo. Guarda un po', Pari, come sto uscendo? 9:20, sì, qua. Ok, allora già va bene, dai. Ho messo un nuovo ramato da sopra il tetto. Stai arrivando bene, dai. E io così sono contento. Io quanto ti arrivo lì, Antonio? 9:20 lo stesso, sì, è uguale. Allora già è giusto il segnale. Anche io 9:20 con l'antenna sotto a cui vicino. Tu sei 8, radio 5. A te immagini ce l'andai, guarda la sotto cuscina. Trova un po' fraco sei. Sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per l'entro quasi 9 sei frammi. Ehi, quanto sono? Prova. 1, 2, 3, prova. E cazzo, tu sei 9,30. Boh, lì funziona ancora questa antenna. E anche la casa ti funziona, se l'antenna, andate, imbarrando. Ehi, ma... Oddio, funziona, non la uso mai, ma quando la uso già funziona sempre. Ha voglia, ha voglia. È la mia, te... L'ho sistemata oggi, dopo un po' di anni. L'ho smontata, l'ho messa a posto e ripiazzata. Questa l'ho ricostruita 200 volte, ne ho tre, due o tre di antenne 5 ottavi in garage, che tanto non serve una mantova 5 forse, una, boh, un'altra di quelle a 20 radiali, non mi ricordo. Ah, di quelle, vabbè, ho capito. Io l'ho visto l'altro giorno una e mi sono messo a ridere di mantova 1 e stavo vendendo uno. Tutta fatta, inferno. Dice questa è la mantova 1, aiuto, ma neanche la somiglia conservata, poi non si è fatta ricostruire. Stavo vedendo 5.000 fondamentalmente su Facebook. Carità, io vabbè, io non le vedo, ce li ho lì in garage, io mantengo in garage, le lascio lì. E anche vabbè, io questa che sto usando ce l'avevo sotto al petto, poi da lì l'ho staccata, mi ha dato una mia 27L e dopodiché in pratica ho installato, l'ho sistemata piano piano, perché l'ho sciolta io lì, non peraltro, con lineare. Gli ho cambiato il tappeto, l'ho messo in campo da 1,5 e dopodiché adesso funziona bene. Ed è perfetta, sta tra 1 e 1 ed è un treno. Ho messo un daniele che mancava, ce n'era uno che mancava, l'ho installato stasera, è perfetto. No, questa è la stella, l'avevo ricostruita prima una volta, poi ho messo a posto una mantova 5, mantova turbo, non me lo ricordo, poi c'ho anche un'altra che costava un pacco di soldi all'epoca, non so quanti elementi, quanti radiali c'ha una carica impressionante, non so quanto, anche quella è a posto, però non lo pago il 27. Soli potrebbero servire. Quella è la Firenze 2, quella che hai ricevuto tu, perché ha 4 radiali e la carica che in pratica è in rame, e poi c'è sotto alla carica c'è un dischetto in plastica, quello serve per regolare le saturarie. Sì, non so, tanto sono lì in garage sono. Già non è porta la fame. Certo, non è porta la fame, ci mancherebbe, non quello di guadagni, scusa, ci mancherebbe. Neanche a me porta la fame, grazie a Dio. Io mai sono messo male, hai capito? Quindi ripiego la pensione e se la prendo in culo. Chi lavora e chi non lavora. Non posso lavorare, quindi a un certo punto lo devo fare, vado al lavoro in nero e ci rimango secco, non esiste, hai capito? Ho capito, e va bene, adesso faccio fuori, comunque andiamo avanti, inizio, guarda, adesso faccio un po' di memoria di quelle che dovrei avere messe lì. Allora, dovrei avere due della 27, poi dovrei avere un'antenna dinamica, la Ultra B 320, che fa 15, vabbè, tutte le bande fa comunque, scusi, 40-20. Poi dovrei avere una direttiva per l'UHF, mi pare 32-20, poi c'ho la 16-20 incrociata, quella dei 9 metri di buffer, l'UHF, poi dovrò qualche X50 e qualche X510 e poi qualche cos'altro lì in un angolo, tutto smontato. sai a me cosa mi servirebbe invece? Un ripetitore del pappagallo, invece. Sarebbe l'ideale mio, verità, per imprimere su canale 7, la verità. Poi, non lo so, tanto lo usano tutti ormai, il canale 7, lo usano i redattori, lo usano i pirati, quello che è, eccetera, eccetera. Quindi, mi servirebbe un ripetitore del pappagallo. Stanno qua a casa, in modo quando esco io me lo porto appresso e a posto della vecchietta di usare il telefonino, con quel problema che ho io purtroppo di validità eccetera eccetera, che vanno all'ospedale, utilizzo il PMR e parlo tranquillamente con casa. Poi vabbè, lo sai che si possono mettere i subbottoni, quindi ecco, non è detto che io lascio i liquidi per il terapeuta per gli altri, quindi lo faccio solamente per me e per casa mia e per i miei familiari, tutto lì. Solo quello mi interessa, non mi interessa nient'altro. E un pappagallo, chiedi a Gianni Merlo, magari lui un pappagallo te lo procura. Ma sei giganziato, ma cazzo. Se vuoi ti procuro un cane, mi cazzo, a modo di cazzo io. Se hai bisogno di un cane, cazzo, per andare a tartuffi, ce l'ho. Cazzo, io ho due di cane. C'è quello, mia moglie e mia sorella di cane. Non da tartuffi, ma... Le mosse che hanno qui. Lascia, aspetta, collega, morsicare. Oh, yeah. Ma sai che c'era? Ho sentito così, un'entrata a vedere che stavate facendo proprio di segnali, siccome ero roba di mesi che non lo usavo questa cosa, è acceso, è sempre, però non sapevo nemmeno se funzionava ancora l'antenna. Ciao Fabrizio, sono io e c'era anche Emanuele. Ciao, è Natali. Ciao, chi c'è, Emanuele? Emanuele Ginco. Ci sei, Emanuele? Ciao, Adriano, ti ho sentito. Dai, veramente vi ascolto, dai. Riprendi, Natali. Ok, va bene. Lui Zanca, io pure non sono messo bene, non mi sento bene, non fa bene. La vecchiaia, Garroni, anche io la sto invecchiando, con gli acciacchi, la vecchiaia, mi chiama, aspetta che devo rispondere, la vecchiaia è... Sì, la vecchiaia è Carogna. Fermi, dopo. Speriamo di non diventare come Pomponio, se no è meglio morire. Sì, della morte. Meglio la morte, ecco, se a diventare come Pomponio è meglio che mi ci portino, come faccio prima. Pomponio. Si è offeso e se n'è andato, poverino. Offeso si è questo Pomponio. Antone. Aspetta, rispondi. Sì. Io, ciao Natalino. Ciao. Ciao, ben sentito. Che cazzo sta fischiando? Mi sono preso la pelle a 3D. Ok. Vabbè signori, io vi lascio che devo fare qualcosa, ci sentiamo alle prossime, dai, correti per me. Thank you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, come sto uscendo? Guarda un po', Gianni. Bene, Ali. Segnale com'è? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 watt sono. Il microfono MB5. Usavo la matova 5, la matova turbo l'ho staccata e l'ho ripiazzata la sera, da solo. Bravo, 9.25, sì, da 9.20 a 9.25, compiti a 9.25. Dai, stai andando bene. Ok, tutto da solo. Meno male. Pensavo che ero cazzo morto. Beh, come ci dica, in pratica non riuscivo più a fare nulla, eppure l'ho fatto da solo l'ho fatto, non li faccio schiattare i vecchietti, cioè i giovani, io sono vecchietto ormai, 62 anni, che non riesco più a staccare una mantola, di metterci uno sotto, pulirla bene, ripiazzarla, e non rimettercela. Adesso sono a posto. Ora, non dico cosa, che mi viene il dubbio che sia la VHF, la verità, perché l'altra volta ricevevo invece oggi non ricevo niente. Non pulita bene, può essere un altro. Evidentemente la VU non va bene. E ci mettiamo anche, ma come si chiama questa di quella? La mia 27L ci piazzo, è perfetta per la VU. Si sente un po' l'avvento là sotto, ma la radio è buonissima, proprio va benissimo. È proprio chiara lì. Non ti ho mai sentito con la radio così chiara. Sono contento, meglio così. Almeno. Sono tranquillo, che non mi sento dire cosa, fa schifo come mi è successo ieri, cazzo. Poi ha preso, che sono lasciato da solo come un cazzo, la verità. Hai capito? A un certo punto sa che la gente sta impazzendo. No, questo va bene proprio, non so se tu gli abbia fatto modifiche al microfono, però va molto bene. No, è un MB5 che sto usando io qui nel 140, hai capito? Adesso deve passare domani, mi sembra, dopo domani passa questa ventina. Io lo sto regalando, quindi figurati, io utilizzo il Salerno, mi piace quello e basta. Cazzo. Il Salerno non ti va più bene? No, il Salerno va bene, perché se la lancio va bene il Salerno, te lo faccio sentire, aspetta un secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedi tu. Forza anche questa, ma mi piace più quella delle MB5. Questa qua rimane un po' con l'effetto camera. Invece le MB5 è proprio piena come radio. Sì, vabbè, dipende dalla... C'è il compressore, già lo sai anche tu. Il compressore c'è la maletta, quindi... La MB5 ce l'ho a 5, cioè nel 95, il Salerno ce l'ho a 5, quindi va benissimo, è un microfono che è stato bene per me, si è sempre adattato, quindi a un certo punto adesso sto usando più tanto il tabletto per farlo, capito? Magari sta fischiando o roba del genere, quello, però se metto il microfono normale è perfetto. Ti esce bene. C'è una bella. Aspetta, sento il fischio, sento. Aspetta, metto il microfono normale. No, già hai fatto un buon abbinamento lì. Questa qua mi piace la radio, quella delle MB5. l'insalata è buona lo stesso, però ha più effetti tipo vuoto, tipo camera. Leggermente, non tanto, leggermente. Però se vogliamo essere proprio fini nel fare i confronti. E vabbè. Ma senti a me che fischia. Adesso mi fischia. Ecco, adesso volevo abbassarlo. In pratica con l'antenna sistemata bella a posto, adesso la questione è tolta come prima. Il microfono è avuto nella posta 1, e ce l'ha 1 infatti adesso. Ha visto come cambia la questione? Ma la mano va perché l'avevi tolta lì? Che c'era... l'ho sciolta. Con 300 watt l'ho sciolta. E adesso cosa hai fatto? L'hai cambiato la carica? No, io ho cambiato il cavetto, che parte la pelle fino ad arrivare alla bobina. Il cavo da 1,5 come si fa di solito, è a posto. E tutto sono come prima, capito? Se lo potevi mettere più grosso adesso il cavo, perché se tu attacchi, a me non me ne ha fottuto perché era un attacconetto, ma se tu attacchi ti conviene mettere un cavo più grosso e risolvi il problema. No, non sa del PL, già lo sai anche tu. Il PL più di un tanto non ci puoi salvare il cavo, già lo sai anche tu, è un casino. Si stacca, capito? No, io l'avevo messo nella mantova 5 e gli avevo fatto il cavo, quello che c'è interno, l'avevo messo più grosso e andava benissimo. Io gli ho messo da 1,5, più di quello non puoi metterli. Se li metti da 2 o da 3, in automatico ti si stacca. Quando vai a saldarlo non c'è nessun... A meno che non saldi cazzo con la saldatrice cazzo delle casse da morto. Cazzo, sto dicendo, così ci vuole un PL, il cavo con la freccia grossa, ma grossa di rame, che salga direttamente su. Una volta che sale direttamente sopra, li fai l'occhiello, gli allagasci direttamente dietro e va a far culo, ti regge 4 o 5 kW, di cosa è quello? Così. Però devi farli, non è che puoi fare così, ci vuole un PL placato in oro, ci vuole, capito? E anche il cavo placato in oro, se vuoi che renda bene, il discorso è quello lì, fino alla bobina, poi la bobina puoi lasciare com'è, così com'è. Gappa gappa. Sì, vabbè, allora si già va bene, se l'hai fatto così va bene. È alzata di più là, io sempre la stessa. No, sempre allo stesso livello, la verità. Sempre allo stesso livello. Gli ho messo ci mancava un radiale, gli ho rimessi, ci ho messo un radiale da 1,50 m, da una parte, e poi gli ho sistemato gli altri che mancavano. La 7 sono ritrovato un nuovo a 8. Ma se io il radiale gli ho cambiati più volte, gli ho messi anche P, perché le cornacchie me li spezzavano, li ho messi pieni, gli ho fatto un rolle passante fino da una parte all'altra per tenermi, perché la filettatura era, con la brugola era partita, quindi gli ho fatto il buco e gli ho messo un bullone passante fino in acciaio e tira gamba. Ho capito. Hai visto quello che si è costruito la mantova 1 con 100 euro lo sta vendendo, era un incrocio tra la mantova 1 e una specie di superlem. C'è la piazza, 4 radiali di ferro sotto, poi c'è la bobina sopra e in pratica manca tutto il resto che è dell'originale, tutto. Io ho la superlem e va benissimo, è un'antenna che manco se attacchi ti salgono le stazionarie, cos'è che non ho mai trovato antenne così. Ebbene, la supereremo la cosa diversa, già lo sai che tu, quindi l'avrei presa anch'io la superlemme. Adesso io, vabbè, ho questa qui, c'avevo più di 15 anni, la verità. Poi adesso vediamo un po' in seguito, me la comprerò una superlemme. Se la trovo, da Fusano me la prendo e me la metto la faccio mettere da parte. Quando sarà il momento che questa antenna qui sarà a buttare, grazie a Dio è nuova nuova ancora, è perfetta, non c'è nessun tipo di uso o niente, quindi figurati tu, quando sarà a buttare installerò l'altra, quindi. Ah, io l'ho presa da Fusaro, costava 180 euro, poi Mattia mi ha fatto lo sconto e me l'ha fatta pagare un po' di meno, ma non tanto di meno, perché ha detto che molto non poteva scendere. E me l'ho presa lì così, non sono stato né a ordinarla né a aspettarla, eccetera. Ce l'ho avuta lì subito e l'abbiamo piazzata con Franco California, l'abbiamo piazzata. Hai fatto bene, hai fatto veramente bene. Tanto quella dura più di 30 anni, non devi fargli nulla. Quella manco il coso, manco la stazione devi fare niente, te lo dico io, perché c'era coso, come si dice, PCB che era lì di Viale Trento, c'era 6 anni quando l'ho staccata, era come nuova, figurati tu, l'ho staccata io, nuova, no, sai come è nuova, gli agganci tutti in acciaio, so. Sì, è vero, è vero, anche dove si attacca il PL, tutto in acciaio, perché quella lì era la parte che nella matova si arrugginiva, probabilmente loro hanno capito che c'era quel problema e l'hanno fatta in acciaio quella parte lì. Esatto, infatti sì, è quello che sto dicendo, è un'antenna che dura 30 anni quella, anche di più, basta saperla, come si dice, gli metti un po' di coso, di come ti posso dire, grasso al limite sopra, oppure vasellina, o se no quello spray che usano adesso per il sintetico che scivola l'acqua, capito? Basta che quello, va bene anche quello ormai. E Ale, ma è tutta ben isolata, tu pensa che le ho messe vulcanizzate e sopra il nastro, beh il nastro non si è ancora staccato, c'è più di un anno, anzi 2 anni c'è, e non si è ancora staccato il nastro, che di solito il nastro si staccava e rimaneva sulle vulcanizzate, quello lì è un nastro buono, che avevo preso da Fusaro, non si stacca nemmeno di dammarsi, e l'ho tirato bene tutto quanto e non si è staccato. C'è il nastro buono, vuol dire, perché io guarda, quando ho staccato la mantova da qui, la verità è staccata integra, nuova, senza avere ossido all'interno, niente, l'unica cosa è che avevo bruciato il cavo, perché ho provato un lineare e che mi avevo dato a provare in prova, dice riparami il lineare eccetera eccetera, ho attaccato 800 e a un certo punto dopo 4-5 giorni tutto entrato è salito il segnale, hai capito tutto lì, ma adesso io gli ho fatto la modifica, posso pompare quanto voglio, non succede più niente ormai adesso, con lineare e con niente, sono più tranquillo adesso, non sembra più il cavo, adesso il cavo che parte dal PL, parte direttamente da lì, c'ho il PL nuovo, arriva sino alla bobina, con il cavo da 1,5 quasi 2, bene a voglia, non scatta nulla. Ma non è entrato nessuno stasera, io pure non sento più nessuno, entro la sera ma non c'è nessuno, o sono gli orari che non coincidono, Vabbè, c'era andato io poco fa, poi è stato Fabrizio, poi vabbè io mi sono dovuto spostare perché mi ha chiamato Simona, di cui c'era una cosa, dopodiché sono rientrato, capito? Fabrizio chi? Occhi di gatto? Io. C'è una di che non lo sento in radio. Ci siamo visti al funerale dell'abute di Antonio Bombolo. Ci siamo visti, ma no, in radio non l'ho più sentito. Già lo so, cosa senti a questo? Stava mettendo a posto qualche apparecchio? No, non stava mettendo a posto qua. È andato solo per fare i passaggi, due o tre, mi sembra che pensò. Poi io mi sono dovuto spostare un secondo, perché mi ha chiamato Simone. Aspetta che arrivo subito, due secondi. Sì, allora fa un poco, vado anche io, te lo portare giù in camera. Va bene, anche là. Allora, dammi il tempo e ti arriva fra poco. Sì, allora, se ride, se no richiedi di salutarlo, perché questo sta già mugugnando. Ah, già dentro, non ti preoccupare, già dentro. Tanto, mi può anche a lui, anche lui sta mugugliando da ieri. Ora, quanto, 3, 4, 5. Prova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3, 1, 2, 3.